Intesa San Paolo, official global banking partner di Expo Milano 2015. Vi presenta. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. It's clear that we have seen remarkable turmoil inside of Libya, and that's led to some pretty terrible incidents of violence there. Josh Earnest, il portavoce della Casa Bianca, il portavoce di Barack Obama, è intervenuto ieri con parole non solo di solidarietà, ma con l'idea di cominciare a muoversi per fare qualche cosa per rispondere a queste continue tragedie. L'ultima, naturalmente, quella di qualche giorno fa sul canale di Sicilia, che vede queste migliaia e migliaia di disperati che cercano di scappare da situazioni di povertà per cercare un po' di fortuna in Europa e che finiscono poi vittime, schiavi addirittura di coloro che organizzano questi barconi, possiamo chiamarli, proprio della morte. Perché sono partito da Josh Earnest? Perché qualche giorno fa, quando ero alla Casa Bianca, durante la conferenza stampa con Barack Obama, il presidente del Consiglio Matteo Renzi, si è parlato di questo fenomeno e devo dire che l'Italia da sempre continua a battere e a ribattere sul fatto che bisogna intervenire, che bisogna fare qualche cosa. Il presidente del Consiglio lo ha fatto quel giorno parlando con Barack Obama prima che ci fosse naturalmente la tragedia che poi ha sconvolto un po' tutti. Italy, Greece, Malta have borne the biggest burden in terms of rescue and arrival operations. I urge the European Union to show solidarity by accelerating its support. Ecco, Ban Ki-moon qui fa un riferimento all'Italia e alla Grecia, dice che l'Italia e la Grecia stanno sopportando una pressione troppo elevata per l'emergenza immigrati e auspica che l'Europa mostri solidarietà a questi paesi. Ecco, Ban Ki-moon non ha parlato delle Nazioni Unite, ha detto che l'Europa mostri solidarietà a questi paesi. C'è un'azione dell'ONU, l'ONU è già coinvolto, c'è Bernardino León che ha come missione proprio quella di cercare di ristabilire un dialogo fra le parti e portare un minimo di stabilità politica in Libia. Quindi è un problema, dunque, questo su due livelli, perché è impensabile poter immaginare di controllare la situazione con le forze dell'ordine e andare a attaccare questi organizzatori, questi RAS che organizzano questi barconi, senza che vi sia una stabilità politica. E l'altro livello naturalmente è quello dell'immigrazione più generale. Gli Stati Uniti tra l'altro sono molto sensibili a questo problema, perché hanno un'immigrazione che arriva dal sud, arriva dal Messico, vogliono costruire delle grandi mura lungo i confini, ci sono delle pattuglie, non ci sono storie tragiche come quella dell'altro giorno nel canale di Sicilia, ma ci sono storie di morti anche qui. Io con me i microfoni di America 24 per capire quali sono gli sviluppi possibili, il rappresentante permanente italiano alle Nazioni Unite, l'ambasciatore Sebastiano Cardi, che di queste tematiche si è dovuto occupare negli ultimi giorni, nelle ultime ore. Buongiorno ambasciatore Cardi. Buongiorno. Qual è l'atmosfera alle Nazioni Unite? C'è un atteggiamento di partecipazione? C'è l'idea che forse si può dare una mano? Come la state vivendo lì? Beh, la tragedia nel canale di Sicilia ha colpito veramente le coscienze anche degli stati membri, lo stesso segretario generale Ban Ki-moon, il quale di nuovo dopo la dichiarazione di ieri così ha attirato l'attenzione, ha stigmatizzato, ha condannato le attività diciamo dei trafficanti, esprimendo anche grande apprezzamento per quanto l'Italia e altri paesi stanno facendo in questo campo, e quindi mi sono ovviamente associato e c'è qualcosa che può essere fatto ovviamente anche alle Nazioni Unite in collaborazione con l'Unione Europea, che giovedì, come sappiamo, avrà un vertice dei capi di Stato e di Governo chiesto proprio dall'Italia, ottenuto dall'Italia, per affrontare finalmente questo fenomeno veramente tragico che scuote le coscienze. Ecco, perché è un fenomeno ovviamente tragico, è quello che è successo adesso, però il problema lo conosciamo, è una ferita aperta, è una ferita che sta portando preoccupazioni anche in Europa, che riguarda il contesto più ampio dell'immigrazione. Ecco, immagino che alle Nazioni Unite vi siano delle commissioni, dei centri studi che si occupano in generale di immigrazione e di problemi che derivano da questi flussi illegali, diciamo. E al di là dell'emergenza si cerca anche di studiare un po' la radice del problema? Sì, l'ONU ovviamente agisce attraverso l'Alto Commissariato per i Rifugiati, che ha sede a Ginevra e che ovviamente già collabora con le autorità italiane, però ovviamente la dimensione, le dimensioni del fenomeno che sta interessando il Mediterraneo, soprattutto l'arrivo verso le coste italiane, è diventata, e soprattutto le dimensioni delle tragedie tragedie che accadono ormai giornalmente, purtroppo per noi, è diventata talmente enorme che ovviamente all'ONU ci si interroga, lo stesso, come dicevo prima, il segretario generale chiede maggiore efficacia degli interventi, diciamo, di salvataggio prima di tutto, ma anche degli interventi per poter risolvere una crisi che appare veramente di dimensioni enormi. Ecco, un'ultima cosa, da un punto di vista operativo, diciamo, la questione può riguardare direttamente, diciamo, la linea di comando e gerarchica che fa capo al segretario generale Ban Ki-moon, nel senso lui stesso può decidere di organizzare con le risorse che ha già disponibili qualche cosa per contribuire ad aiutare in questa situazione, oppure si seguirà più un percorso politico, diciamo consiglio di sicurezza, quindi un voto e l'identificazione di una missione che abbia una connotazione più politica e quindi con la partecipazione degli Stati membri. Per il momento è difficile ancora anticipare un pochino le possibili azioni che potranno essere intraprese. Si dovrà comunque partire, come dicevo prima, da questo importantissimo Consiglio europeo che l'Italia, tra l'altro, ricordo, ha chiesto ovviamente da tanti anni quasi, e da lì poi vedere a un certo punto cosa gli Stati membri potranno fare per mettere in campo risorse per affrontare e possibile risolvere alla radice il fenomeno, e in quest'ambito, attraverso questa collaborazione ovviamente auspicata dall'Europa ma anche dalle Nazioni Unite, dal segretario generale, tra Europa e stati rivieraschi, ovviamente stati confinanti e Nazioni Unite, cercare di trovare il modo di mettere in piedi azioni e strumenti e misure che possano combattere e risolvere alla radice questo che è diventato un problema, come ha detto il Presidente del Consiglio, come ha ricordato anche il Ministro degli Esteri, di dignità ormai. Tutti questi morti, questo mare che deve essere un mare invece, non un cimitero come è stato ricordato, ma un mare invece di cooperazione, di crescita, di scambi culturali, politici e di amicizia. Ovviamente. Quindi forse dopo tanti anni purtroppo ci voleva una tragedia di queste proporzioni per scuotere un po' le coscienze. E l'Italia questo ovviamente l'aveva denunciato da tempo e questo purtroppo va detto, però è chiaro che queste ultime tragedie ovviamente stanno facendo capire l'urgenza del fenomeno e l'importanza di adottare soluzioni che veramente una volta per tutte possano interrompere questi flussi e dare una speranza a queste persone che fuggono, ricordiamolo, dalla povertà, dai conflitti, dalle violenze. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Ripensavo a questa tragedia di queste persone in fuga, mi è venuta in mente una canzone degli U2, una canzone che è sul sogno di una profuga il cui padre è morto in guerra, che vorrebbe raggiungere la terra promessa. Nel caso di questa canzone, la terra è promessa e l'America, nel caso di questi disperati che scappano dall'Africa, la terra promessa e l'Europa, degli U2, The Refugee, il rifugiato.